il macro capitolo della trasmissione di oggi, che è dedicato principalmente al racconto delle giornate, un approfondimento sul CAP Fest, il Knowledge Against Power Festival, che è un festival che è stato pensato e organizzato da diversi collettivi all'interno dell'Università La Sapienza, anche dislocati in diverse facoltà, non solo in città universitaria, li elenchiamo un po', e ovviamente Sapienza Clandestina, che dà voce a questa trasmissione, ed inoltre il collettivo di economia, l'officina di fisica, l'auletta di giurisprudenza, il collettivo CASP di scienze politiche ed il collettivo di ingegneria. Oggi in trasmissione qui con noi abbiamo due compagni e due studenti, uno del collettivo di economia, l'altro dell'officina di fisica, che ci racconteranno un po' la loro partecipazione a questo festival. Però prima di questo vi ricordo il calendario proprio del festival, che è iniziato lunedì e terminerà questo venerdì 20 maggio. Lunedì abbiamo avuto una tavola rotonda a cui daremo voce proprio oggi per riportare un po' di riflessioni che ci siamo fatte, che si intitolava giusto appunto "Che cosa succede in università". Ieri a Sociologia, che ricordiamo lunedì ha occupato un'auletta proprio dentro la facoltà di Sociologia in via Salaria 113, e si è svolto un pranzo sociale a seguito delle iniziative che hanno riportato un po' delle inchieste che sono state fatte sul diritto allo studio e la situazione degli studenti oggi all'università, ed inoltre un aperitivo. Oggi mercoledì abbiamo il piacere, insomma, di dare voce ancora una volta a un'iniziativa che già si è prodotta, quindi diciamo il secondo capitolo l'anno scorso, detta Fronti e Frontiere. È un'iniziativa tutta incentrata sul tema delle migrazioni. A questo riguardo, a chiusura della trasmissione Sapienza Clandestina con il redazionale che subito seguirà, parleremo in corrispondenza con dei compagni e delle compagne del presidio No Borders a Ventimiglia, che ci racconteranno e approfondiranno ancor più il tema che verrà ripreso oggi, che ricordiamo è l'incontro alle 4 si svolge a Lettere. La giornata di domani invece è dedicata a dei momenti ospitati a scienze politiche e ad ingegneria. A scienze politiche ci sarà un pranzo sociale a seguire un'iniziativa a mezzogiorno, mentre ad ingegneria, sempre domani alle ore 15, la campagna "Io non dimentico" per il decennale dalla morte di Renato Biagetti ospiterà un'iniziativa molto importante con Stefania Zuccari, la madre proprio di Renato, dentro l'aula e lo spazio che è proprio intestato a lui. Poi a seguire alle ore 10 avremo anche, diciamo, il momento goliardico, un po' festivo di questo festival, di questo CAP Fest, che è la cosiddetta CAP Night, l'abbiamo chiamata così. È una festa che ospiteremo in città universitaria dalle ore 10 e per tutta la notte, con il cartel global, la Tropical Gypsy Voodoo Electro Rave All Night Long, DJ set, funky soul and disco. Ed infine la giornata di venerdì sarà ospitata interamente economia alle ore 15, dove tratteremo il tema di cui le nostre compagne prima in corrispondenza ci hanno accennato, che è la primavera francese tra stato di emergenza e loi travail. Però insomma, poi ora abbiamo due ospiti qui in corrispondenza, in trasmissione, anzi non in corrispondenza, proprio qui con noi, che ci parleranno un po' dei temi che abbiamo affrontato nella tavola rotonda di venerdì e del perché hanno organizzato e partecipato a questo festival. Poi sentiremo anche i compagni di ingegneria e di scienze politiche. Ciao, io sono Alessio di fisica e oggi vi racconterò un po' che cosa ci ha spinto a collaborare col CAP Fest e a condividere quei temi che per tutto l'anno abbiamo cercato di portare avanti all'Officina di Fisica e nel Dipartimento. E senza poi andare oltre e affrontare temi che invece sono stati più importanti per altri posti, mi limiterò a raccontare di come noi abbiamo vissuto il tema della socialità e della ricerca nel nostro Dipartimento. Quello della socialità crediamo che sia un tema davvero importante, perché in un contesto in cui l'università e si riduce sempre a tempi più stretti e la retorica del merito e della valutazione e della ricerca di essere sempre in competizione con gli altri porta a far sì che il tempo da dedicare a quello che non sia poi a quello che non sia l'università istituzionale e che non possa essere scritto con il curriculum si riduce sempre di più. Per questo noi all'interno del nostro spazio cerchiamo sempre di costruire momenti di socialità più ampia, che soprattutto a fisica, dove insomma siamo un po', abbiamo un po' di difficoltà a interagire con il mondo esterno, sono davvero importanti, che ci hanno portato a fare durante l'anno diversi aperitivi, a costruire uno spazio di socialità nel giardinetto Zen di fisica e tutta una serie di anche atteggiamenti rispetto all'agire politico, che poi si concentrano molto sulla capacità di far interagire le persone parlando di cose che non sono le solite formule o equazioni che vediamo solo a lezione. E sempre per uscire un po' dal tema del rigore matematico che invece ci viene insegnato nelle aule, abbiamo cercato di allargare la nostra visione della scienza facendo dei percorsi di approfondimento sia sul tema della ricerca che su come questa si diffonde. E questo percorso, che noi abbiamo chiamato Mind the Gap perché vuole sottolineare il gap posta tra la società e la scienza, tra il come noi studiamo e siamo convinti che insomma sia un mondo quasi perfetto o che si può approssimare bene, e quello che invece poi la società richiede dalla scienza e dalle sue possibili applicazioni. E questo percorso Mind the Gap, che si concluderà in un festival, farà una tappa in un festival il 26 e il 27 a Fisica, di cui magari vi parleranno meglio compagni che seguiranno nella prossima settimana, che appunto sarà la settimana del festival, e abbiamo cercato di condividere i temi fondamentali nella tavola rotonda che abbiamo fatto al Tre Serrande, e ci siamo ritrovati davvero molto, perché quello della ricerca è un tema che poi si va a intersecare e oltre che nei modi, quindi questo produttivismo, questa ricerca sempre di risultati e mai il tempo per approfondire e capire dove si sta andando, è un tema che si lega fortemente a quello del lavoro, del precariato all'interno dell'università e dello sfruttamento del lavoro gratuito. E quello che ci è davvero piaciuto infatti della tavola rotonda è stata l'opportunità, che non accade spesso all'interno dell'università, di interagire con altre persone di altre facoltà che spesso presentavano le nostre stesse problematiche, propositività e criticità rispetto a come loro attraversano l'università. E poi non so se bisogna andare avanti approfondendo qualche altro tema, ma io lascerei agli altri compagni che seguiranno dopo. Io ecco, chiudo parlando di Liberant e di questo progetto che abbiamo portato avanti più o meno a Fisica, l'ACLAB. E Liberant è un progetto che proprio nasce sulle basi di questo ragionamento sulla condivisione dei tempi e dei saperi e della possibilità di fare socialità da questo. Liberant è un archivio digitale di libri pirata che potete trovare in alcuni spazi in città, ma anche fuori, a Bologna, a Pisa e tutti gli altri collettivi che si sono ispirati all'idea. E è un progetto che è proprio un archivio digitale e che se hai un libro e vuoi caricarlo e renderlo disponibile a tutto, puoi andare lì e in questi posti, ad esempio il The Rollis Underground, dove c'è un archivio, e caricare il tuo libro e vedere che cos'altro ha messo a disposizione le persone. È un progetto anche che parla dell'aumento dei costi dell'università e che vuole riappropriarsi del sapere, scavalcando quelli che sono i meccanismi burocratici purtroppo il pagamento dei libri non viene assicurato da nessuno, neanche all'interno dell'università. Ci sono moltissimi corsi che per seguirli costano centinaia di euro e magari vengono agevolate le tasse per i redditi, ma nessuno poi si occupa di agevolare i costi dei libri, perché è sicuramente una lobby di profitto che nessuno riesce a contrastare, neanche, insomma, non c'è neanche l'interesse nell'università. E quindi noi abbiamo cercato di andare incontro alle necessità e bisogni degli studenti e delle studentesse, organizzando questo archivio che appunto potete trovare in vari spazi all'interno dell'università, tra cui uno è il The Rollis Underground. Dai, e approfitto per ringraziare i compagni di Sapienza Clandestina della playlist sulla canzone napoletana, che hanno tirato fuori delle chicche che io non conoscevo, e grazie davvero. E non è finita qua ancora, quindi vedrai, no? Grazie a voi per aver partecipato. Adesso approfitterei, visto che siamo qui anche con un compagno di economia, vediamo pure di dare voce anche a questo nuovo collettivo che si è affacciato all'organizzazione di questo festival insieme a tutte quante le nostre altre realtà, e vediamo puoi raccontarci un po' tu insomma la situazione. Buongiorno a tutte e tutti, io sono Andrea del collettivo Economia La Sapienza e ringrazio prima di tutto i compagni e le compagne di Sapienza Clandestina e di Radio Onda Rossa per averci dato la possibilità di essere qui oggi a parlare non solo del CAP Festival ma anche della nostra esperienza all'interno della Facoltà di Economia dell'Università La Sapienza. Farò un discorso breve per riprendere tutti i temi che già in 2 anni di lavoro e di lotta politica stiamo cercando di portare avanti dentro la facoltà di economia. Non vi nascondo le difficoltà che abbiamo incontrato in questi 2 anni, un po' come tutti i compagni e tutti i collettivi che lavorano e operano in questo momento all'interno dell'università, ma vi devo sottolineare ed evidenziare le particolari difficoltà che ci possono essere in una facoltà di economia in questo momento. Al di là del disinteresse generalizzato degli studenti ad affrontare alcune tematiche relative alla lotta di classe, all'opposizione a un sistema capitalistico ormai devastante e distruttivo, ma al di là di questo anche a partecipare a momenti di confronto e di dibattito collettivo che noi abbiamo sempre cercato di portare avanti, non chiudendoci mai sulle nostre posizioni, ma cercando di interfacciarsi con la realtà studentesca che avevamo intorno. Proprio per questo motivo, al di là dei temi propri della didattica, abbiamo anche cercato di portare avanti le tematiche relative alle vertenzialità che comuni a tutti noi studenti, ovvero la penuria di spazi, i continui disservizi che ci sono all'interno della facoltà, e riteniamo importante anche una battaglia sugli appelli per poter dare la possibilità agli studenti di organizzare meglio le loro sessioni di studio, ma ovviamente tutto ciò si inserisce in un quadro di critica molto più ampia a un sistema dell'università che riflette un sistema capitalistico che ci vuole a ritmi produttivi e forsennati e ci costringe a correre anche sui nostri studi. Non abbiamo la possibilità di fermarci a pensare, dobbiamo prendere quello che arriva, studiarlo, fare l'esame e arrivederci. Non abbiamo tempo di poter studiare, approfondire i temi, dobbiamo essere pronti il prima possibile per un mercato del lavoro sempre più precario e sempre più instabile. Sotto questo punto di vista abbiamo cercato di in questi 2 anni di portare avanti un ciclo, devo dire, abbastanza ricco. Ringrazio tutti i compagni del collettivo Economia che non sono qui per portare quei temi che non ci vengono insegnati, perché purtroppo nei nostri corsi di economia sono incentrati sulla teoria mainstream, sull'ordoliberismo, insegnarci che il mercato è bello, buono e riesce a garantire il benessere sociale di tutti quanti. Ecco, al di là di questo noi abbiamo cercato di opporci a questa visione portando avanti diverse lezioni con professori, ricercatori, giornalisti e altre persone competenti che ci sapessero dare una visione critica della realtà nella quale viviamo tutti i giorni, e questo per contrapporre alla continua mercificazione delle nostre conoscenze un percorso di formazione critica e analitica che ci porti ad opporci alla logica che vede capitale e lavoro come perfetti sostituti all'interno delle funzioni di produzione, in quanto approcciandoci a una formazione di tipo marxista crediamo che le possibilità di lavoro siano vincolate e dettate dal capitale e che soprattutto l'offerta di lavoro non sia libera come ci vogliono far credere, ma è purtroppo frutto di uno sfruttamento continuo da parte del sistema capitalistico nei confronti dei lavoratori. Per questo motivo abbiamo ospitato all'interno della nostra facoltà diverse conferenze in cui abbiamo cercato di portare avanti questa visione dei temi propri dell'analisi marxista, la contrapposizione e lo scontro non soltanto politico ma anche sociale che esiste tra capitale e lavoro insieme a diversi professori. Abbiamo anche cercato di portare avanti tutte le iniziative relative a America Latina e a Cuba per presentare il progetto dell'ALBA che riteniamo fondamentale insieme, e anche qua voglio ringraziare il professor Luciano Vasapollo che è stato, diciamo, il nostro mentore e collega, visto che abbiamo più volte organizzato questi dibattiti insieme, per portare il modello dell'ALBA, dicevo, che si oppone al libero mercato, al commercio internazionale che vede la contrapposizione di paesi a bassa produttività e che servono soltanto come bacino di riserva di forza lavoro rispetto a dei paesi avanzati capitalisticamente che non vogliono altro che sfruttare le risorse degli altri paesi. E per questo abbiamo cercato di far vedere che può esistere un'economia che si incentri sui bisogni e sulla cooperazione internazionale tra i paesi e che non deleghi tutto al mercato, l'allocazione delle risorse e il benessere della collettività. Per questo abbiamo aderito al Festival Knowledge Against Power, perché abbiamo ritenuto fondamentale portare avanti questa nostra battaglia di formazione, estenderla anche agli altri collettivi, e come diceva prima il ragazzo dell'officina di fisica, anche per mettere insieme e in comune le nostre conoscenze. Noi possiamo intervenire sull'ambito economico, loro hanno fatto un ottimo lavoro sulla ricerca e sull'editoria, ma tutti i compagni che sono al momento attivi all'interno dell'università stanno portando avanti ottimi lavori, e per questo proprio approfittiamo di questo festival per mettere in comune tutte le nostre conoscenze e competenze per organizzare un fronte studentesco che altrimenti è vittima dell'apatia. E noi ospiteremo l'ultima giornata un incontro aperto sulla primavera francese tra stato d'emergenza e loi travail, non solo per evidenziare i problemi della realtà francese a seguito degli attentati e della chiusura degli immigranti, ma per portare avanti anche un'idea che abbiamo già più volte affrontato dello stato di emergenza come un'adozione di politiche liberticide che vogliono impedire alle proteste e la frequentazione di spazi politici e di agibilità politica. E inoltre volevamo collegare questo alla loi travail, omologo francese del nostro Jobs Act, proprio per ritornare sui temi di cui parlavo prima, della precarizzazione del mondo del lavoro, che ci vuole sempre di più instabili, sempre più disposti a venderci non solo sul mercato del lavoro ma anche attraverso tirocini, stage gratuiti, non pagati, mal pagati. Vogliono il lavoro nero e noi vogliamo vedere perché questa politica sul mercato del lavoro non è soltanto un progetto italiano con il Jobs Act, ma è un progetto francese anche con la loi travail, che si sta estendendo a tutti i paesi dell'Europa e che vede una contrapposizione tra un nord sempre più avanzato industrialmente e anche tecnologicamente, mentre relega altri paesi dell'Europa euro-mediterranea a fornire soltanto un bacino di forza lavoro di riserva a basso costo. Vi ringrazio e ripasso la parola al compagno. Sì, allora comunque adesso continueremo a sentire i temi di questo festival, poi vi restituiremo la parola sia per rilanciare, so che dovete rilanciare su alcuni appuntamenti, ad esempio fisica col Festival Mind the Gap della prossima settimana, e anche per farci spiegare meglio questa iniziativa di venerdì che appunto chiuderà il festival. Però il festival è già partito in realtà da due giorni con le due giornate di sociologia. Adesso proviamo a metterci in contatto proprio con i compagni di sociologia, e domani vedrà un appuntamento, oltre che quello festivo dentro la città universitaria, un appuntamento nella facoltà di ingegneria, sede dislocata di San Pietro in Vincoli. E adesso, proprio dopo un intervallo musicale, ci collegheremo con una compagna del collettivo di ingegneria. E allora alle 11.25 continua la trasmissione di Sapienza Clandestina in diretta dalle libere frequenze di Radio Onda Rossa. Continuiamo a parlare di Cap Fest, il Cap Fest che vede diverse realtà partecipare a questo festival che dura appunto una settimana in varie sedi dislocate oltre alla città universitaria. E giovedì il festival si sposterà al centro di Roma, andrà nella sede di ingegneria di San Pietro in Vincoli, dove ci sarà una giornata di iniziative. Ma per farci raccontare meglio dovremmo essere in collegamento con una compagna del collettivo di ingegneria. Ci senti? Sì, buongiorno a tutte e tutti. Ciao. Allora, se ci vuoi raccontare come si svolgerà la giornata di giovedì, in che cosa consisteranno i vari appuntamenti, appunto lì da voi. Sì, dunque, domani faremo un'iniziativa dedicata al Giardino per Renato, appunto nella nostra sede della Facoltà di Ingegneria a San Pietro in Vincoli. Dunque, Renato Biagetti era un ragazzo che si è laureato nella nostra facoltà e che all'età di 26 anni è stato ucciso a coltellate da un giovane fascista il 27 agosto del 2006 a Foceni. Il percorso del Giardino per Renato nasce 4 anni fa dalla volontà di ricordare Renato ed esprimere il rifiuto di ogni fascismo, razzismo ed intolleranza. E quindi diciamo, si è pensato che il modo migliore per farlo non fosse una semplice targa alla memoria, bensì un qualcosa che fosse vivo e realizzato collettivamente. Crediamo dunque che proprio in questo percorso di auto-organizzazione e progettazione partecipata ci sia una vera costruzione di antifascismo. La condivisione di idee, le decisioni prese in maniera orizzontale, sia un modo concreto di opporsi alla prevaricazione, alla violenza e alla cultura dell'odio. Quindi abbiamo organizzato questa giornata domani per portare avanti il progetto del Giardino per Renato, perché è un progetto in continua evoluzione, in cui a partire dalle 15 ci sarà un momento di manutenzione, espressione artistica e un tavolo di progettazione partecipata. Alle 17 avremo vari interventi, tra cui i ragazzi di Dauhaus, che sono, diciamo, parte dell'auto-organizzazione che ha iniziato il Giardino per Renato, e la partecipazione di Stefania Zuccari. E a seguire avremo musica dal vivo, aperitivo, e poi ci sposteremo tutti quanti in Sapienza per continuare con il Knowledge Against Power in Sapienza. Quindi vi aspettiamo numerosi e numerose, grazie mille, ci vediamo oggi a Lettere. E grazie a voi. Allora sì, rinnoviamo l'appuntamento appunto di oggi a Lettere, Fronte e Frontiere parte 2 alle ore 15 nella facoltà di Lettere. Rinnoviamo l'appuntamento per domani dalle 15, giusto? Sì, esattamente. Dalle 15 alla facoltà di ingegneria presso San Pietro in Vincoli, anche per sostenere un'iniziativa di memoria, ricordo, a 10 anni dalla scomparsa di Renato Biagetti. Saranno presenti anche appunto la mamma, il comitato Io non dimentico, insomma, anche oggi loro hanno un appuntamento in risposta alla manifestazione autorizzata dalla questura di Casa Pound. Insomma, anche questo di domani potrebbe essere un momento per ricordare che l'antifascismo è una lotta che deve essere portata avanti tutti i giorni da tutti e tutte dentro l'università. Noi ti ringraziamo e allora ci vediamo dopo, ci vediamo in particolare con voi domani pomeriggio, e a risentirci. E siamo ora in linea, in collegamento con una compagna del collettivo Caos di Sociologia, che ci racconterà la giornata di lunedì, in cui hanno finalmente rioccupato uno spazio dedicato agli studenti all'interno della facoltà, che mancava ormai da tempo, da quando è stata sgomberata l'aula portico nell'agosto di un paio di anni fa. E la giornata che si è svolta ieri, di inizio del CAP Festival, appunto, interamente a Sociologia. Sì, ciao a tutti, come dicevi tu, ieri, no, lunedì c'è stata una riappropriazione di questo spazio dedicato interamente agli studenti, e c'è stata un'altra partecipazione da parte di tutti, insomma, gli universitari, a partire anche dai lavoratori, insomma, assistenti e quant'altro. E ieri poi c'è stata la seconda giornata del CAP Fest, in cui ci sono state varie presentazioni dei laboratori e dell'inchiesta che è stata portata avanti e analizzata, dalla quale appunto emergeva un effettivo bisogno da parte di un'alta percentuale degli studenti di uno spazio in cui poterci riunire, anche insomma cansati dal studio, quindi provvedere anche a questo tipo di servizio con pranzi sociali. E nulla, poi c'è stato un aperitivo hip hop molto partecipato anche quello, e la giornata si è conclusa così. Sì, ok, appunto le iniziative che avete messo in campo ieri erano appunto dedicate la prima, insomma, all'inchiesta che avete messo in piedi come collettivo Caos, e anche insomma le varie attività che svolgerete come laboratori all'interno della facoltà e all'interno della nuova aula occupata. Appunto, se vuoi illustrarci anche alla luce di quella che è stata, insomma, la vostra inchiesta e alcune delle problematiche che sono emerse attraverso questa, che si vivono in particolare gli studenti della facoltà di sociologia, nel senso che appunto con questo festival abbiamo cercato di far emergere quelle che sono le complessità all'interno di vari collettivi studenteschi che appunto sono all'interno delle facoltà, e quindi si occupano delle problematiche che all'interno di queste vediamo. Sì, diciamo che, vabbè, qui bisogna fare anche un po' un discorso su come siamo nati, nel senso che appunto dopo un paio d'anni di totale silenzio all'interno della nostra facoltà, abbiamo cominciato a vederci prima come assemblea, parlando insomma di quelle che erano le nostre difficoltà sia all'interno della nostra facoltà che intorno a quella che è la nostra vita e la vita di tutti gli studenti. Da qui poi abbiamo cominciato a fare delle vertenze verso il nuovo ricalcolo ISE e della situazione delle mense, anche perché insomma una mensa a sociologia non c'è, e da qui quindi insomma sarà un'altra partecipazione, un altro coinvolgimento, e quindi ci siamo formati più come collettivo e abbiamo iniziato effettivamente a fare delle lotte universitarie, insomma delle vertenze attraverso questo questionario, questa inchiesta, e è emerso appunto una mancanza appunto di servizi, in cui abbiamo deciso di provvedere facendo questa inchiesta, e nulla, ecco, sono emerse anche altre difficoltà sia dal punto di vista della mobilità, abitativo, e quindi ecco provvederemo anche a fare nel particolare, analizzare nel particolare queste altre problematicità e fare nuove vertenze. Ok, allora noi ti ringraziamo per questa corrispondenza e ci vediamo ovviamente in questi giorni con il continuare insomma di questo Cup Fest, che vedrà appunto la partecipazione di diverse facoltà. E, oggi pomeriggio saremo, come abbiamo già ricordato, a Lettere alle ore 16 con un incontro sul tema delle migrazioni, che vedrà diversi partecipanti, tra cui una compagna che è stata a Idomeni qualche settimana fa, che appunto ci racconterà un po' anche dal vivo com'è la situazione là, visto che appunto le uniche notizie che abbiamo sono quelle che ci danno i giornali e insomma sappiamo bene che tipo di informazione trasmettono. Quindi ti ringraziamo di nuovo per questa Grazie corrispondenza e appunto ti salutiamo anche con felicità appunto nel vedere insomma la situazione a sociologia che riprende animo dopo un paio d'anni di stallo e riesce insomma a rimettere in piedi un collettivo che funziona, che è partecipato e che appunto si concentra su quelle che sono le problematiche degli studenti che vivono la facoltà. A presto. Ciao, grazie. Volevo ricordare ancora una volta l'appuntamento molto importante di oggi pomeriggio alle ore 16 a Lettere in Aula 6, il secondo appuntamento di Fronte e Frontiere dopo quello che a ottobre ha visto appunto la partecipazione di molti studenti migranti che hanno raccontato la loro storia proprio nell'ambito del festival Fieramente Contro. E allora oggi si rinnova questo appuntamento, visto che sicuramente la situazione da ottobre ad oggi non è di certo migliorata per quanto riguarda le frontiere, per quanto riguarda la chiusura dei vari valichi per l'accesso dei migranti in Europa, per quanto riguarda diciamo la repressione nei confronti di chi si batte per un mondo senza frontiere e l'accanimento verso persone che fuggono da guerra, fame e disperazione cercando un futuro migliore qui in Europa. Interverranno appunto diverse persone, diversi ospiti a questa iniziativa, interverranno due docenti della Sapienza che si occupano di questo tema, interverranno una serie di compagni, appunto come ho detto prima, una compagna di Sapienza Clandestina che è stata recentemente a Idomeni per raccontarci quello che effettivamente succede tra la Grecia e la Macedonia e non quello che viene raccontato dai giornali. Sarà presente in collegamento telefonico un compagno della rete No Borders Ventimiglia, vista la drammatica situazione che si sta svolgendo in questi giorni, ma di cui rinnovo l'appuntamento, parleremo al termine della puntata di Sapienza Clandestina nel redazionale di Radio Onda Rossa, proprio in collegamento telefonico con i compagni del No Borders, e insomma poi vari interventi di studenti e migranti che parteciperanno a questa iniziativa. Poi appunto si sposterà, come abbiamo sentito, il festival al centro di Roma, con la giornata in ricordo e in memoria di Renato Biagetti, e la festa, poi torneremo con la festa dentro la città universitaria. Venerdì, a conclusione del festival, ci sarà questo incontro. Ci sarà questo incontro proprio nella facoltà di economia. Non dimentichiamo però giovedì 19 a Scienze Politiche alle ore 12, i compagni del collettivo organizzato Scienze Politiche. Oggi non siamo riusciti a contattarli telefonicamente, non potevano passare in radio, però ci sarà un pranzo sociale e l'iniziativa, che consisterà nella presentazione della tesi di laurea di uno studente di Scienze Politiche, con inoltre l'intervento di alcuni ricercatori di sociologia e di scienze politiche. Quindi andiamo in conclusione, però chiaramente il nostro festival non finirà con queste 5 giornate. C'è l'impegno sicuramente a continuare a lottare contro un'università sempre più classista e stringente, sempre meno luogo di diritti e possibilità per studenti e studentesse, e quindi sicuramente ci siamo già ci lasciamo, sapendo che continueremo a vederci per organizzare un fronte di lotta comune a partire dal prossimo autunno. Però non finirà, anche perché la facoltà di fisica approfondirà i temi con un ulteriore festival la settimana prossima. Ma allora, visto che approfittiamo della loro gentilezza e sono ancora qui, io vorrei far rilanciare sugli ultimi due appuntamenti i nostri compagni di fisica e di economia sul festival di Mind the Gap dopo, e prima sull'iniziativa di venerdì. Lascio allora a loro i microfoni, poi andremo verso gli anni 90 con la playlist tutta incentrata su Napoli, per poi concludere con i giorni nostri, e quindi anche la musica che oggi viene suonata e cantata nelle strade, nei vicoli, nei quartieri della città. E allora lascio però i microfoni prima all'Officina di Fisica, che ci racconterà di questo Mind the Gap con vai. Sì, mentre io sono qua ci sono i miei compagni dell'officina che stanno tappezzando l'università di manifesti, perché è un po' questo il taglio, quello di cercare di aprire i temi che per noi sono importanti della ricerca, certo. E di come si fa lezione e di come si studia fisica, volerli allargare un po' a tutti, cercando di accedere a più contributi che possiamo. E un po' è stato anche questo il taglio proprio del Cap Festival, che a noi è piaciuto molto, che è stato la possibilità di conoscere persone di altre facoltà, persone interessate come noi a lottare per i propri bisogni e per un mondo che sia più rispettoso delle persone e del lavoro e anche dell'università. E quindi vi invito tutti a partecipare, anche se pensate che con la ricerca della scienza c'entrate davvero poco, ma magari scoprirete che i punti in contatto con quello che, per come si pubblica a lettere o quello che si fa, come funziona la ricerca a scienze statistiche o economia o fino anche a sociologia, come si organizza un dottorato, hanno davvero molto a che fare con quello che avviene a fisica. Il mondo dell'accademia è tutto un grande calderone fatto di lobby e meccanismi che non funzionano molto e non garantiscono affatto la condivisione e la crescita di un sapere libero. Quindi vi ricordo che il 26 e 27, a partire dalle 16, sul piazzale di Fisica della Sapienza, inizieremo con questo festival, che saranno 1 o 2 giorni di dibattiti sul tema della ricerca e dell'editoria, e a seguire teatro, musica dal vivo e talk autogestiti. Per qualsiasi informazione potete scriverci a mindthegap@inventati.org o andare a cercare sulla nostra wiki a mindthegap.gap. E ringrazio ancora i compagni di Sapienza Clandestina per questo spazio sulla radio, e è stato davvero un piacere partecipare a questa costruzione della settimana. Sì, riprendendo il discorso che faceva il compagno di fisica, sulla ricerca c'è molto da discutere. Approfitteremo della presenza di Marta Fana, dottoranda in economics presso l'Institute dell'Etude Polytechnique de Paris, che sarà ospite venerdì 20 maggio alle ore 15 presso la Facoltà di Economia a Castro Laurenziano, fuori dalla città universitaria, con la quale parleremo della primavera francese tra stato d'emergenza e loi de travail. Lei ha fatto uno studio molto interessante sul Jobs Act, vedendo che l'applicazione di questo contratto, oltre ad aver fatto un grandissimo regalo alle imprese private, aver reso ancora più precario il mondo del lavoro e aver spostato una grandissima componente di lavoratori da un contratto a tempo determinato a un contratto a tempo indeterminato attraverso un trucchetto truffa di licenziamento e riassunzione con questo nuovo tipo di contratto, ha inoltre fatto notare che c'è stato un grandissimo spostamento verso tipologie di lavoro che richiedono basse qualifiche e competenze tecniche, e questo proprio è uno dei problemi che bisogna affrontare all'interno dell'università: capire perché cosa studiamo, capire che cosa vogliamo fare, e il tema della ricerca è sotto questo punto di vista importantissimo. Approfondiremo i temi legati alla loi travail e al Jobs Act anche con Francesco de Clash City Workers, e inoltre avremo Arianna che ci presenterà il suo studio sullo stato d'emergenza per ricollegare il tutto alla situazione attuale delle proteste in Francia. Vi invito a continuare a seguire il redazionale dopo sulle varie corrispondenze per essere anche aggiornati sulla questione dei no borders e dei crimini che si stanno commettendo alle frontiere dell'Unione Europea. Come collettivo Economia siamo felicissimi di aver intrapreso questo percorso insieme alle altre realtà auto-organizzate della Sapienza. Speriamo che questo sia un primo passo per poterci conoscere meglio, per poter federare le lotte e per poter mettere in campo una serie di progetti comuni che sappiano ripartire a settembre con un piede forte, perché c'è bisogno di una lotta, visto quello che presumibilmente accadrà con l'introduzione forse di tirocini sempre meno pagati o addirittura gratuiti all'interno dei nostri percorsi formativi. E per questo ringrazio i compagni e le compagne di Sapienza Clandestina dello spazio oggi, Radio Onda Rossa, per il lavoro che sta portando avanti da 40 anni di frequenza libera, e dando anche la possibilità a noi studenti di portare avanti le nostre battaglie e di comunicare con il resto del mondo. Vi rinnovo l'appuntamento venerdì 20 maggio, ore 15, Facoltà di Economia. Grazie a tutti.